Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, do. Questo è l'alfabeto musicale che vi voglio presentare. Si si do la do, do re mi fa sol, la si si do la do, do re mi fa sol, la si si do la do, do re mi fa sol, la si si do do si la fa. Oh che momenti, sembran dei baba balbuzienti, ma poi contenti, al fin si resterà. La do fa re do fa, fa re do fa re do fa fa, do do, do re do fa re do fa. Questo è l'alfabeto.